si può fare? Di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Amazing grace, how sweet the sound. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Abbiamo iniziato oggi con un po' meno brio perché abbiamo deciso che, insomma, un paio d'ore fa allo Staples Center di Los Angeles si è esibito il cantante Usher, cantante R&B, rhythm and blues, se riuscirò a dirlo, in memoria di Kobe Bryant e della figlia Gianna. E quindi questo è il nostro piccolo omaggio, insomma, questo grande campione dello sport e a sua figlia che ci hanno lasciato questa settimana. Ci sembrava giusto, nel senso che appunto è andata successo. In onda due ore fa, ci siamo commossi tutti, ci sembrava un buon modo per ricordare Kobe Bryant, un gigante anche del si può fare, direi proprio. Esattamente, un gigante anche del si può fare. La partita era questa sera Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers, quindi la prima partita senza Kobe Bryant, e così è stata introdotta da Usher. Adesso andiamo al nostro solito passo si può fare, e vi ricordiamo che tra l'altro oggi è giornata di quiz. La giornata di quiz, ci si prenota all'800 24 00 24, e si risponde, si sceglie una risposta, esatto, diciamo, tra le tre possibili. Una notizia con tre possibili finali, solamente uno dei tre è quello vero. Se lo indovinate vi portate a casa i biglietti della mostra Impressioni d'Oriente, credo. Ultimi giorni. Nel caso non riusciste a venire, insomma, potremmo sicuramente cambiare al prossimo giro. Ecco, insomma, non è che proprio siete costretti a partire domani mattina per vedere la mostra prima che chiuda. Vediamo un po'. Sicuramente ci sono delle possibilità. I biglietti in palio al momento, comunque, sono quelli della mostra Impressioni d'Oriente. 800 24 00 24 per prenotarsi e partecipare al nostro quiz. 349 238 6666 invece per SMS e WhatsApp. Tra l'altro oggi vorremmo parlare un pochino, alla nostra maniera ovviamente, di Brexit che si è realizzata, e magari potremmo raccogliere anche i vostri ricordi di UK, di Gran Bretagna. Io ad esempio ricordo un orribile cola float che però a me piaceva tantissimo. Primo viaggio in Gran Bretagna, anni 16, ci rimpinzavamo di Coca-Cola in cui dentro veniva buttato una pallina di gelato alla vaniglia. Questo è il mio primo strano ricordo della Gran Bretagna. Mi sembra un bellissimo modo per dire forse è bene che siano andati via, questo, nel senso che non abbiamo perso molto. Andati in treno, ovviamente. E tra l'altro domani ci collegheremo con Sergio Nava, che anche lui è andato in treno l'ultimo viaggio partito, che era ancora Unione Europea, e ne uscirà dalla Gran Bretagna che non lo è più. Esatto, sì, anche per me la Brexit, giustamente prima abbiamo sentito Usher, che ha cantato poche ore fa per Kobe Bryant, ma stanotte, in realtà proprio stanotte a mezzanotte, l'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea. La bandiera blu con le stelle d'oro verrà ammainata in tutta l'isola, e noi ammaineremo la loro di bandiera. Qualche giorno fa i parlamentari europei hanno votato l'approvazione, e poi dopo cantano, vedi, è questo canto che torna, è per Kobe Bryant, per l'Inghilterra. Ci sono tutti i parlamentari che cantano tutti assieme il valzer delle candele, che adesso magari detto così non vi dice niente, ma l'avete certamente sentito in molti film. È la tradizionale canzone scozzese della fratellanza e degli addii, diciamo. È un video veramente commovente, questo, andatelo a vedere se vi capita, lo trovate su internet, lo trovate anche il link sulla mia pagina Facebook, o comunque ovunque. Ecco, quel adesso video magari ce lo cerca anche Edoardo, che vero, è in assistenza, sì, il valzer, sì, delle candele. Vale di più, diciamo, il video, perché vedi i nostri politici, di tutta Europa, che comunque c'è chi è commosso, chi è meno commosso, chi è anche arrabbiato, chi è anche deluso, insomma, quel video credo che sia una buona notizia, perché per il resto, insomma, molti paragonano Brexit a un divorzio. Mi ricordo, Laura, che anche l'altra volta che ne parlammo qui qualcuno proprio disse: vabbè, un divorzio, quando i genitori litigano è giusto che si separino. Ecco, soprattutto quelli che ci tengono un po' a semplificare lo paragonano a un divorzio, perché dicono quando si litiga è meglio separarsi. Io però non credo che sia un divorzio, perché noi europei siamo già una famiglia, mica siamo sposati fra noi, non c'è nessun matrimonio al momento, noi siamo già adesso fratelli e sorelle da sempre. Quelli che si sono sposati sono i nostri bisnonni, i nostri re, le nostre regine, i nostri antenati europei, da quando per migliaia di anni ci siamo massacrati in guerre sanguinarie. Noi inglesi, francesi, italiani, tedeschi, spagnoli siamo sorelle da sempre, e da circa 50 anni abbiamo deciso di tornare a fare Natale assieme, e anche Pasqua, e anche Capodanno, e pure qualche viaggio, di riunirci e dirci che seguiamo le stesse regole, le stesse linee guida, e quindi tanto vale che uniamo pure la stessa moneta, che usiamo pure la stessa moneta, tanto siamo fra di noi. E questa è stata una decisione storica, gigantesca, rivoluzionaria. Ecco, ora, dopo 50 anni circa, il fratello inglese ha deciso che basta, perché tutti pensano sempre di essere quelli che in famiglia mettono, ma senza mai prendere abbastanza, no? Nelle famiglie è facilissimo convincersi di essere maltrattati e urlare anche il pulso: sta famiglia fa schifo, basta, me ne vado, non voglio più fare Natale con voi. E se trovi chi malauguratamente cavalca questa rabbia, e poi tocca andarsene davvero dopo che hai detto me ne vado. Ecco, e poi lo sappiamo, in famiglia si divide tutto, no? E all'inglese non andava più di pagare pure per chi sta poco bene, per chi è meno fortunato, o anche per chi magari è anche più lazzarone di lui, ma alla fine ha altre qualità che poi servono a tutti, perché i fratelli sono così, soprattutto quelli che pensano di essere un po' più fighi da sempre e anche diversi, anche un po' americani, ma poi quando vanno via poi li manchiamo. Spesso tornano, e lo speriamo, e se non tornano cerchiamo di volerli bene lo stesso, ben sapendo che siamo noi nella ragione. Lui va via, ma ciò non mette minimamente in discussione che siamo una famiglia, anzi, a maggior ragione staremo qua a dire: eccolo là, se n'è andato il nostro fratello. Perché l'Unione Europea è una buona idea con o senza Gran Bretagna, come avrebbe detto uno dei nonni di tutti noi, Winston Churchill, che appunto era pure britannico, ma è nonno di tutti. Carlo, apprezzo il tuo sforzo, cioè tu l'hai guardata dalla parte dell'europeo, dici: noi comunque stiamo insieme, certo, e questa è una bella, in certo. Effetti hai ragione, perché noi tutti guardiamo, pensiamo sempre la Gran Bretagna se ne va, però noi restiamo, sì, no, esatto, noi restiamo, esatto. E possiamo anche imparare, diciamo, da questa situazione, cosa che tanti politici stanno finalmente dicendo, cioè dobbiamo renderci conto che se un fratello se ne va, forse ci sono anche cose, cioè, che non vanno bene, magari c'ha qualcosa lui, però esatto. Forse anche noi facciamoci l'esamino di coscienza. Sì, l'importante sì. È non farlo troppo tardi. La cosa più sbagliata è andare via, mi sembra, soprattutto quando si sta discutendo, no? Nel senso che uno dice: vabbè, e capiamo come. Vabbè, va tanto di moda, però, come... nei salotti, no, televisivi, quanti ce n'è che ormai si alzano? Esatto. Me ne vado. E poi ti tocca andartene. Un po' all'Inghilterra è andata così, diciamocelo, perché a un certo hanno fatto il referendum, ovviamente, è democrazia, certo, ci mancherebbe altro, però è un po' di impulso che uno dice: appunto, a Natale, quante volte ti viene voglia di dire basta, questo è l'ultimo Natale, Natale prossimo non vengo. Poi di solito il Natale dopo se ne riparla. Passa in cavalleria. Ma se in mezzo per un anno tutti te fanno la guerra contro, poi giustamente tu dici: sai che c'è, non possiamo proprio andarci sto Natale. Allora, tra un istante diamo la linea al primo ascoltatore che ha chiamato per il quiz, però devo una risposta a un'altra ascoltatrice, fin dai tempi della rassegna stampa, che è un'ascoltatrice affezionatissima, quindi io sono sicura che lei è ancora in ascolto, almeno mi auguro che Betta sia ancora in ascolto. Io ho letto un articolo in cui parlava del Rinascimento, l'insegnamento riguardo il canone occidentale della bellezza che nasce dal Rinascimento, italiano, che veniva insegnato a Yale, veniva insegnato con grande successo dal professor Scully, e poi adesso invece verrà modificato, verrà cambiato, perché insomma non bisogna mettere sul piedistallo, diciamo così, quel periodo che trasmette un valore non politicamente corretto secondo la Yale, perché maschilista, eterosessuale, europeo, cultura bianca, eccetera eccetera. Allora, questo articolo si trova sul Quotidiano Nazionale oggi, Quotidiano Nazionale, quindi abbiamo in mente Il Resto del Carlino, come si chiama, La Nazione, Il Giorno, ecco, lì trovate l'articolo che riguarda il Rinascimento, l'insegnamento del Rinascimento a Yale. Allora, detto questo, e poi gli ascoltatori mi rimproverano perché dico ho detto questo, do la linea a Salvatore da Catania. Salvatore, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei ha già chiamato per il quiz, ci ha preso proprio subito di primissima mattina. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo pronti? Ne sa come funziona, no? Quindi le leggo la notizia e poi passano le risposte. Allora, la notizia è questa. A Sassari, ormai da 3 anni, si porta avanti una sperimentazione davvero originale che presto sarà copiata anche in Spagna e in Francia. Di cosa si tratta? Cosa prevede? Risposta numero 1, la foratura delle gomme per chi parcheggia in divieto di sosta. Risposta numero 2, multe salate per chi attraversa la strada parlando col cellulare. Risposta numero 3, l'esproprio della bicicletta per chi pedala contromano. Ah. Cosa dice? È bella questa qui. Allora, ma io penso alla prima. La foratura delle gomme per chi parcheggia in divieto di sosta. No, purtroppo non ha indovinato, però effettivamente meglio così, insomma, perché se ti forassero le gomme sarebbe un bel problema. La risposta giusta erano le multe salate per chi attraversa la strada parlando al cellulare. Questa è la decisione del comune di Sassari, che multa anche i pedoni al cellulare, perché giustamente è pericoloso, perché rischi di farti tirare sotto. Grazie mille di aver chiamato. Grazie Salvatore, comunque buona giornata, resti in ascolto che adesso abbiamo tante altre notizie e questioni da affrontare insieme. Prima fra tutte direi quella della viabilità, no Carlo? Sì signori. Il traffico. Si può fare. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a 1 giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a 1 giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. Ricordo a tutti 824 0024 per prenotarsi per il quiz, perché se Salvatore ha sbagliato, però noi altri quiz abbiamo e i biglietti sono sempre a disposizione, quindi potete continuare a chiamare per prenotarvi. E anche per i vostri ricordi di Inghilterra, dicevamo, no? Giusto nel giorno della Brexit, anzi il giorno dopo della Brexit, memorie inglesi di quello che avete memorie vissuto. Inglesi, non vogliamo discutere di Brexit, perché comunque già a lungo no, se ne è discusso. Direi che ne abbiamo fatto a sufficienza. Poi noi dettagli di quanto pagano, quanto non pagheranno, non sono per la nostra trasmissione. Noi siamo più così, più terra terra, più vogliamo i vostri ricordi magari o delle esperienze o qualche episodio che vogliate raccontarci. Ma adesso vi introduciamo a tutt'altro argomento. Partiamo da una notizia triste per invece parlare di un futuro più roseo, speriamo, per l'appunto, tra l'altro ho detto il colore adeguato. Il ricordo è quello di Pippa Bacca, un'artista, performer, che fu uccisa in Turchia durante un suo viaggio itinerante in abito da sposa. Forse lo ricorderete, è stata una notizia, certo, di cui si è parlato molto, addirittura ne parlò il presidente turco Erdogan, ne parlò tantissimo la stampa turca, perché fu un episodio anche per loro, diciamo, sconvolgente. Ora ci sono due ragazze che con il progetto Libera come una donna vogliono in parte ricordare l'artista Pippa Bacca e in parte portare avanti altri contenuti, fare rete con le donne italiane sul territorio. E noi abbiamo in collegamento per parlare di questo progetto Valentina Costi, che è per l'appunto una delle ragazze Libere come una donna. Buongiorno Valentina. Buongiorno. Buongiorno Valentina. Allora, voi ripartirete come aveva fatto Pippa Bacca a suo tempo l'8 marzo. Il percorso esatto. vostro non sarà all'estero, ma sarà in Italia, perché è sul nostro paese che volete agire, diciamo, no? Esattamente, una delle prime riflessioni che abbiamo fatto quando abbiamo deciso di partire per questo cammino è venuta, ecco, da una persona che ci ha ricordato la triste storia di Pippa Bacca, mettendoci, ecco, volendoci mettere un po' in questo senso, no, di paura. Noi abbiamo subito pensato che purtroppo sì, quello che è successo è una cosa bruttissima che non dovrebbe più capitare, ma quello che l'immaginario comune pensa è che il pericolo, specialmente per le donne, sia all'esterno sia nello sconosciuto, quando magari una donna decide di fare qualcosa del genere come ha fatto Pippa Bacca da sola, là va verso il pericolo. Noi ci siamo rese conto, comunque tutte le statistiche lo precisano, la maggior parte dei pericoli che le donne corrono per quanto riguarda la violenza e i femminicidi avviene all'interno delle mura domestiche o comunque per mano di una persona conosciuta e di cui si Tra l'altro in questi giorni proprio le cronache ci stanno riportando diversi casi, non si sa mai perché, sì. ma che quasi a ondate arrivano, ecco. Sì, probabilmente sono anche, insomma, delle questioni di comunicazione. In ogni caso, effettivamente questa settimana in Italia è stata veramente pesante da quel punto di vista. E ecco, noi ci siamo dette, quello che è successo a Pippa Bacca, come dicevo, succede una volta ogni 2 o 3 giorni in media e a casa propria. Quindi noi quello che vogliamo fare è andare a discutere, a cambiare le cose a partire dalla porta di casa nostra. Quindi abbiamo pensato a questo cammino effettivamente sulla via Francigena, che è una via di pellegrinaggio da millenni, direi, insomma, comunque da tantissimo tempo, e abbiamo deciso di partire da Lucca proprio il giorno dell'8 marzo, che oltre ad essere il giorno in cui partì Pippa Bacca è ovviamente anche la riconosciuta giornata, certo. come una giornata molto importante, e in cui da qualche anno vengono organizzati degli scioperi definiti del consumo e dei consumi fatti appunto da tante donne. Quindi noi lo faremo a partire da Lucca, vogliamo partire da questo corteo anche simbolicamente, per poi, finito il corteo dell'8 marzo, per continuare questo cammino, insomma, questo cammino di cambiamento. E dunque voi tappa per tappa quindi proseguirete nel vostro cammino, che poi si concluderà il 31 marzo, farete la via Francigena in sostanza, no? Sì, sì, seguiremo le tappe della via Francigena fino a Roma. Esatto, fino a Roma. Tappa per tappa incontrerete, se ho ben capito, altre donne, altre reti, diciamo, di donne o di associazioni comunque che esatto. vogliono condividere con voi riflessioni, appunto attenzione e così via. Sì, l'idea è proprio di andare a intervistare, a creare un dialogo e uno scambio, soprattutto con le esperienze di tante donne, ma anche di tanti uomini, che le limitazioni alle libertà femminili le hanno vissute sulla propria pelle. E quando dico limitazioni alle libertà femminili, voglio intendere in realtà delle limitazioni proprio di genere, che vanno poi anche a cambiare quello che è il ruolo maschile. Insomma, comunque i ruoli sono, se non sono in equilibrio, chiaramente creano delle discriminazioni per chiunque. Però anche Valentina, prima... scusa, perché lo fate sì. come fece a suo tempo Pippa Bacca in abito da sposa? Perché cioè, l'abito da sposa vuol dire tutto e il contrario, nel senso che esatto. no? Perché identifica la donna di nuovo con la sposa. Allora, effettivamente l'abito da sposa è da una parte un omaggio alla vicenda di Pippa, che comunque è simbolica, no, di tante altre persone che hanno fatto quella fine, diciamo, ma da un'altra parte vuole essere un simbolo, vuole essere per noi un mezzo e uno strumento per creare il dialogo. È comunque una cosa strana di vedere una persona sul cammino vestita da sposo, o comunque con dei delle cose che ricordano, no, una sposa. Per noi rappresenta, il vestito da sposa rappresenta il ruolo sociale che le donne per la maggior parte si sentono di dover ricoprire, e quindi è proprio uno strumento per andare a parlare di quello che noi non vogliamo che si pensi solamente al femminicidio, alle violenze coniugali. Quelle per noi sono solamente la punta dell'iceberg di tutta una costruzione sociale che vada anche dalle cose più piccole. E quindi, insomma, la donna al giorno d'oggi, noi pensiamo che anche solo quando hai 30 anni o a partire dai 30 anni, se non sei sposata, è comunque la prima domanda che viene fuori quando conosci qualcuno. Ma infatti è per questo che vi chiedevamo esattamente come mai l'abito da sposa, nel senso che è, come sottolineava Laura, è un simbolo che si può usare sia come il giorno più bello, sia per dire forse il giorno più bello per una donna non è detto che sia solo quello, nel senso che non è detto che è solo quindi in realtà ci giocate un po' con questo simbolo, oppure se semplicemente lo mettete lì, uno giustamente si fa delle domande e dice forse sono un gruppo di persone che vuole che ci sposiamo tutti. È un modo diciamo per riappropriarsi di simboli sociali e riutilizzarli, insomma, per motivi diversi. Certo. È solamente uno dei simboli che noi vogliamo utilizzare. Certo. E riappropriarci. Senti, in maniera diversa. Come documenterete tutto questa allora scusami se ti interrompo, ma niente, vai. Diciamo che avevo un po' capito. Durante tutto il cammino, oltre ad incontrare le realtà e le persone e parlare con loro, vogliamo chiedere loro di poter fare una foto, fargli indossare questo vestito, per poi fare una mostra fotografica in cui metteremo la foto vicino alla storia di vita che questa persona ci ha raccontato. Perché noi vogliamo chiedere come queste persone sono state influenzate dalle limitazioni alle libertà femminili, ma anche come poi ne sono venuti fuori eventualmente, come hanno ricostruito la loro vita intorno a queste cose che sono successe. Quindi ci piacerebbe poi creare una mostra fotografica itinerante dopo la fine del viaggio da portare in giro nei comuni, nelle associazioni, insomma, sempre per continuare a parlare di questi argomenti. Ottimo. Mi sono autocensurata spegnendo il microfono. Volevo sapere, tu in cosa, tu personalmente, diciamo che sei una giovane donna, in che cosa ti senti più limitata, diciamo, nella tua esperienza quotidiana? Allora, dal pregiudizio, dal fatto che non mi si dia la possibilità di, come dire, dello sguardo delle persone. Spesso io sono una donna comunque molto indipendente che ha deciso di fare un percorso di vita abbastanza libero, libero, sì, ma anche non normale, ecco, non capito dalla maggioranza delle persone. Il fatto che io sia una donna penso che desti delle preoccupazioni maggiori dalla parte delle persone con cui ne parlo, e quindi questa cosa sinceramente è anche opprimente, perché magari si va ad aggiungere a delle ansie, a delle paure che già normalmente quando andiamo verso lo sconosciuto abbiamo. Grazie, certo. Valentina, dobbiamo salutarci. Grazie mille, Valentina. E allora in bocca al lupo per la vostra camminata, ci risentiremo magari durante il percorso. Adesso abbiamo GR24, Valentina Costi, ricordo, era in collegamento con noi. Torniamo subito dopo e parleremo di come abbassare i prezzi possa servire per rilanciare l'economia. Siete d'accordo o no? A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura, 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. But Che bel rientro tranquillo abbiamo avuto dopo un giornale radio. I giornali radio di questi tempi sono necessariamente pieni di notizie un po' ansiogene, quindi un pochino di calma, un pochino più di serenità sicuramente ci fa tutti piacere. E le notizie ansiogene sono anche quelle che vengono dalla nostra economia, le abbiamo lette oggi, insomma non è che va tanto bene, certo non possiamo dare la colpa a questo governo, a quello prima, ci sono anche una serie di questioni internazionali, ma insomma si stagna un po', siamo certo, lì, non certo. È che si cresce moltissimo. Volevi dare la colpa all'Europa? Ma sì, dai, diamo la colpa a chiunque, ti ma il problema è... Che scrivono certo. Così, insomma, che hanno capito poco di Brexit, direi, in generale. Esattamente, ma comunque il fatto è che bisogna affrontare una realtà, poi alla fine della fiera chi lavora ha davanti le cose, le deve affrontare, ed è quello che ha fatto Leonardo Leone Solla, che è titolare, tra l'altro, dei ristoranti Mamma Mia di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Che ormai propone, diciamo, perché mi pare che sia già la seconda volta, questa iniziativa di abbassiamo i prezzi, venite dal lunedì al giovedì, costa meno, fa bene a voi, fa bene all'economia, forse fa un pochino meno bene a lei, non so, poi ci dirà, insomma, come ristoratore, il fatto di tenere a 3 euro pasta e pizza. Beh, allora, prima di tutto un imprenditore per fare un'offerta deve farsi dei conti prima, va bene attirare persone, va bene fare campagna, però bisogna capire sempre che ci sono dei costi, ed è proprio quello che ho fatto io vedendo i miei ristoranti, che sono comunque di ampia metratura, hanno dei costi fissi molto alti. Avevo capito che andando avanti con il ristorante mezzo vuoto, magari, o comunque sotto una soglia minima durante la settimana, non sarebbe stato buono. E poi anche perché, soprattutto anche iniziata così, abbiamo visto l'abitudine delle persone che in questi ultimi tempi si stanno un po' andando a cambiare, cioè il fatto che le persone poi solo il sabato riescono ad andare a mangiare fuori, magari sono stanchi durante la settimana, gli farebbe piacere non cucinare e poi non lavare dopo cena, non riescono a farlo, e quindi noi abbiamo detto ok, con una botta così possiamo fare in modo di colpire due bersagli, fare in modo che noi abbiamo comunque il ristorante pieno per poter pagare le spese, poter far lavorare le persone, e dall'altra parte invece il cliente ne beneficia perché comunque riesce ad uscire in maniera più disinvolta durante la settimana. Ma e come si fa a riuscire ad avere dei primi e delle pizze a 3 euro? Nel senso che spesso quando si parla con i ristoratori, giustamente, loro, uno magari si lamenta perché dice costa tantissimo, costa troppo, giustamente ti spiegano, guarda che c'è il costo del prodotto, i prodotti sono sempre migliori, i prodotti bisogna andare a prenderli in un posto specifico, a chilometro zero, in più c'è il personale, c'è l'illuminazione, l'affitto, a Milano ti dicono, come si fa a 3 euro? Nel senso che la prima domanda che le persone si fanno è: ma sarà roba buona anche a 3 euro? È una domanda lecitissima e rispondo assolutamente sì. Abbassare la qualità in qualsiasi attività, soprattutto nella ristorazione, sarebbe un autogol che poi potrebbe segnare che la vita. Che lo paghi sabato e la domenica poi. No, certo, il discorso, no, è quello, ecco, andare a individuare anche quando farlo e come farlo è molto importante. Riguardo i costi, che è la prima domanda che giustamente avete fatto, è legata all'idea di quanto costi poi un piatto di pasta. Allora, un piatto di pasta ci sono modi e modi per farlo. Io purtroppo ho il modo più costoso, nel senso che l'olio che utilizzo io lo pago quasi 10 euro al litro, perché comunque è un olio artigianale che viene dalla Puglia. I pomodorini li prendo dalla Sicilia, quando potrei risparmiare e prendere quelli campani. E la pasta prendo comunque una pasta di, non so se posso fare pubblicità, meglio che non lo dico. Vabbè, d'alta pasta, qualità, diciamo, dai. Su, sì, così almeno non facciamo torta a nessuno. Che è quello, infatti, che è quello che si prende proprio anche a casa quando uno vuole la pasta buona, una marca buona. Questo lo faccio già di solito e non lo smetto di fare quando faccio l'offerta. E facendo questo un piatto arriva a costare 2 euro, una matriciana ti costa comunque di materiale, food cost 2 euro sì. In produzione. Ovviamente non c'è la manodopera, non c'è l'elettricità, non c'è il gas, non c'è l'affitto, ma questi sarebbero comunque costi che pagherei anche se non ci fosse nessuno. Certo, no, questo è chiaro. Questo è chiaro. Quindi in realtà è una sorta di sottocosto, se vogliamo, perché a te costa 2 euro e lo rivendi a 3, ma non ti ripaghi sicuramente tutto quello che c'è intorno. E come reagiscono le persone? Il ristorante è pieno? Le persone sono contente? E soprattutto, cosa succede poi il venerdì, il sabato e la domenica? Perché uno dice, no, qua io fino da lunedì al giovedì pago 3 euro e il venerdì non ci vado. Allora, il venerdì e il sabato sono troppo nell'abitudine delle persone, comunque il venerdì e il sabato è strapieno. Il sabato noi, bene, nonostante abbiamo 550 coperti in uno dei ristoranti e 450 per esempio in un altro, insomma, grandi metrature, dobbiamo mandar via persone perché escono tutti, soprattutto il sabato. Il venerdì no, il sabato sì. Quindi certo, questa è un'abitudine che è rimasta e rimane. E durante la settimana? Durante la settimana è pieno, abbiamo raddoppiato il numero dei coperti, ovviamente abbiamo abbassato tantissimo i margini, cioè non sarebbe sostenibile abbassare i margini su tutti i cibi, su tutti i giorni, questo ucciderebbe proprio l'attività, no, ma proprio andrei sotto, cioè sotto che chiuderei. Invece così facendo, mettendolo solo sui primi, poi ci sono gli antipasti, ci sono le bibite, ci sono i dolci, ci sono i contorni, c'è il venerdì, il sabato e la domenica, e quindi il nostro conto economico rimane in positivo. Certo. Quindi comunque lei dice, bisogna, per muovere l'economia, appunto non solo la sua ma quella più, no, del paese, bisogna inventarsi qualcosa, ecco, perché aspettare che passi forse ormai è un po' inutile. Non si può fare. Allora, quello che fanno tutti, questo lo raccomando lì nella mia pagina Lardo Leone, io parlo a tutti gli imprenditori e dico proprio questo. Io diciamo che sono impegnato nell'80% del tempo proprio a fare questo, a dare una mano agli altri, perché sono riuscito a risolvere i miei problemi con le mie aziende, e ho diverse aziende in vari settori, e oggi diciamo sono in campo proprio ad aiutare gli altri. Quando si fanno le offerte in generale, le offerte devono essere fatte in una certa maniera, ma soprattutto gli imprenditori invece di solito, quando non ci sono gli incassi, tagliano i costi, quindi licenziano personale, abbassano magari gli acquisti, non investono più nel marketing, e così è il suicidio. Quindi questo non bisogna farlo. Io non ho licenziato nessuno, nonostante in questi 2 anni c'è una pressione negativa per vari motivi. Primo, perché ci sono tante persone che hanno scelto la ristorazione come settore dove entrare, quindi sono aumentati. Sono aumentati proprio, esatto, non c'è più una limitazione per le licenze, tranne nel centro storico, quindi si apre a punti e si apre, possono aprire 5 ristoranti in 200 metri, quindi questo, la competizione è molto alta. E l'altro è che comunque le persone realmente, non so se le avete visto anche voi con i numeri, spendono meno, sono costrette, ci sono meno soldi in giro, e quindi l'imprenditore o decide di chiudere, cambiare settore, oppure deve continuare a investire, non deve rallentare, deve viaggiare sul gas. Questo ritengo che possa, anzi io sono sicuro, perché mi sono fatto diversi conti anche con un mio amico economista, questo, nonostante la politica magari faccia scelte sbagliate, se mai facesse dei cambiamenti come ha fatto, comunque se l'Italia produce di più a livello interno, comunque ci sono più posti di lavoro, ci sono più soldi che girano e tutto si muove. Se tutti stanno a casa e non spendono nulla, proprio una legge di mercato è ancora peggio. Quindi restiamo, c'è una costrizione. Restiamo fermi dove siamo e lentamente scendiamo. Grazie. Esatto. Grazie mille. Grazie Leonardo Leone Solla, grazie, da Roma. Grazie molte, buon lavoro. Abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Arrivano messaggi che riguardano i ricordi dalla Gran Bretagna, adesso ve lo leggo, ma anche un messaggio su Facebook che ci ricorda che oggi a Milano viene intitolato un giardino a Pippa Bacca in via Tommaso da Cazzaniga alle 15:30. Quindi vedi, proprio incredibilmente nel giorno in cui noi ne abbiamo parlato coincide con il giardino. Grazie di questa segnalazione, perché non la sapevo. No, infatti, conosco benissimo la via, perché è la via praticamente che porta alla scuola tedesca a Milano, via Tommaso, ecco, da Cazzaniga. Quindi oggi, se ti vuoi sentire bambino, esatto, torni là. città e vedi anche l'inaugurazione. Esatto. Poi c'era una signora che invece ci manda un messaggio, dice che ha trascorso degli anni in Inghilterra, era il 72 e gli italiani erano ancora considerati quelli con la gonna nera lunga, i foulard sul capo, tanti figli, e lei che arrivava da Milano si prodigava a smentire, dice, gli inglesi, insomma, in queste loro credenze, che poi erano le stesse degli americani, quindi ma certo, bene o male, però poi si ricorda anche di alcuni piatti, ma dice che insomma quei due anni sono stati utilissimi alla sua carriera successiva. E per parlare di ancora UK c'è Marco da Brescia. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Cosa ci voleva ricordare, insomma? Leo, se non ricordo male, lei vive, ha vissuto, continua ad andare a Londra? Sì, sì, corretto. Io mi sono trasferito, sono nato nel Mantovano, ma mi sono trasferito nel Regno Unito nel 2000, quindi qualche anno fa, diciamo. Sì. Riprendendo il discorso della signora di prima, io sono la generazione, diciamo, tra i baby boomers e la generazione X. Io ho visto solo marginalmente questa idea degli italiani, diciamo, con le gonne nere e foulard, però ho visto completamente le generazioni dei primi lavoratori dei call center che arrivavano in Scozia e in Inghilterra. Ho visto veramente una piccola rivoluzione tecnologica, diciamo, che ha accompagnato il Regno Unito in quegli anni, l'ho cavalcata. La mia esperienza chiaramente fa ricordo, ma non necessariamente statistica, però devo dire che il Regno Unito negli ultimi 20 anni ha accelerato molto più rispetto a tantissimi altri paesi, e questo si è visto anche nel loro modo di accogliere. Il tema dell'accoglienza è molto molto caro, insomma, anche specialmente in questo periodo. E certo, poi bisognerà vedere cosa succederà d'ora in poi. Certo, questo sì, però ho sempre visto e mi sono sempre trovato, diciamo, nel Regno Unito respirando l'aria di opportunità. Vorrei dire a tutti quelli, insomma, che hanno paura di questa Brexit, di provare magari a non pensarci, ma di pensare al Regno Unito come per tutti gli altri paesi, come un paese fatto comunque di persone, dove ci sono opportunità e comunque, diciamo, occasioni positive comunque per tutti, e di non scoraggiarsi. Grazie Marco, grazie. Molte. E anche del messaggio positivo, no? Ha trovato la chiave, si può fare, è un paese fatto di persone. Grazie molto Marco. Vero, molto vero. Cambiamo argomento e a questo punto vi porterei a parlare un pochetto di agricoltura. Filippo mi guarda, come dire, no, perché in questa settimana ovviamente se ne è parlato moltissimo, c'è Fiera Agricola a Verona e quindi è la più grande manifestazione del settore, e noi a Radio 24 varie trasmissioni, io stessa mi sono trovata a fare interviste sulla cimice asiatica. E com'è andata? Parla molto la cimice asiatica. No, non mi ha voluto parlare, ho dovuto parlare con quelli che la conoscono, ma non so, Antonio Boschetti, che è direttore dell'Informatore Agrario, forse ne sa di più. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, si è parlato molto appunto di questa cimice asiatica, ma in realtà non è certo l'unico, no, insetto parassita che crea problemi nei campi degli italiani, ci sono anche quelli tipicamente italiani. Io pensavo che la cimice asiatica fosse quella che mettevano i servizi segreti cinesi dentro negli uffici. Niente. Invece no, ho sbagliato, invece, chiedo scusa. È un pericolosissimo insetto che quest'anno ha fatto un macello nei campi di frutta soprattutto. Antonio, ma c'hai davanti la mano, perché il microfono noi sentiamo piuttosto male, diciamo la verità. Non riesci a trovare una posizione migliore magari? Adesso sì. Adesso meglio, direi che hanno disattivato la cimice che era dentro il tuo telefonino. Esatto. Allora dicevi. Appunto ha fatto moltissimi danni, ma appunto non è l'unica, no, che purtroppo sta nei campi, perché è sempre stato così. E ho visto che voi tra le novità che avete premiato, no, con le foglie dell'innovazione, così si chiama il premio, esatto, avete tra l'altro una Trap Vision e poi esatto, una serie di altri straordinari ritrovati, dicene qualcuno. Sì, allora abbiamo la Trap Vision che è proprio un sistema per combattere gli insetti dannosi delle colture, soprattutto in vigneto, ed è costituita da una telecamera ad altissima precisione, che è in grado di inquadrare gli insetti attirati da una trappola a feromoni. I feromoni sono gli ormoni sessuali degli insetti, quindi utilizzando questi feromoni gli insetti si avvicinano alla telecamera, la telecamera li riprende e attraverso un software riconosce l'insetto. Quindi l'agricoltore, standosene nel suo ufficio, è in grado di vedere in giro, come i sorveglianti esattamente, no? Nei suoi appezzamenti vede quali sono gli insetti dannosi che si stanno avvicinando, è in grado anche di contarli e quindi di stabilire le cosiddette soglie di intervento. Cioè, e a quel punto cosa fa? Nel senso che appena vede l'immagine della zecca cattivissima e esce, la va a prendere? No, spruzza qualcosa, immagino. Diciamo che intanto deve, come dicevo, deve raggiungere la soglia di intervento, cioè si interviene solo quando il numero di insetti contato rappresenta un pericolo per il raccolto, e a quel punto si interviene con vari prodotti che sono sempre più sostenibili. A questo proposito, sempre nelle foglie dell'innovazione abbiamo premiato un prodotto, pensate, proprio un insetticida che viene ricavato dalla fermentazione di un batterio e quindi è a bassissimo impatto ambientale, a rapida degradazione, che significa che io lo spruzzo e dopo poco tempo non trovo più le tracce di questo prodotto. Ottimo. E quindi sì, tutta l'agricoltura sta andando proprio in questo senso, ridurre l'impatto ambientale, quindi ridurre l'utilizzo degli agrofarmaci, sostituire in alcuni casi gli agrofarmaci con le lavorazioni meccaniche. Il caso ad esempio del diserbo, un'altra innovazione che abbiamo premiato, serve proprio a fare il diserbo meccanico in sostituzione del diserbo chimico. Cioè togliere le erbacce, ecco, togliamo. Togliere le erbacce, esattamente. E anche questa macchina è altamente tecnologica perché è in grado con delle telecamere di riconoscere la cultura rispetto alle erbacce. No, questo, mi chiedo scusa se interrompo, ma questo avrebbe fatto felice mio padre che ha passato tutta la vita nel giardinetto al lago a dirmi adesso togliamo le erbacce. Cioè esiste, e giustamente la domanda è ma qual è l'erbace, qual è erba? E quindi c'è, ma è stupendo questo, chiedo scusa. No, ma figurati, perché guarda, il problema del diserbo meccanico, cioè di eliminare le erbacce meccanicamente anziché chimicamente, è quello tanto di distinguere l'erbaccia dalla coltura e poi quello di avvicinarsi il più possibile alla coltura, quindi eliminando tutte le erbacce senza danneggiare la coltura. E questo si riesce a fare attraverso queste telecamere che, come dicevo, con altissima precisione riconoscono la coltura e consentono quindi all'attrezzo che toglie le erbacce di avvicinarsi senza però danneggiare la coltura stessa. Sarei diventato ricchissimo, perché il mio babbo mi dava una lira per ogni erbaccia e due lire per ogni sassolino che toglievo dal prato. Quindi ogni tanto ho preso delle manciate di ghiaia per arricchirmi. Ma io vorrei il trattore elettrico per le aree urbane, perché quest'anno è arrivato anche quello. Finalmente c'è anche quello. Quest'anno è arrivato il trattore elettrico, quindi completamente elettrico. Proprio come dicevi, per le aree urbane in questo modo è possibile, perché sai, a volte le lavorazioni nei campi devono essere fatte, per essere efficaci vanno fatte o al mattino presto o magari anche alla sera, e siccome soprattutto in alcune aree dell'Italia abbiamo i campi, le colture molto vicine alle città, con il trattore elettrico tu puoi andare a fare le tue lavorazioni anche al mattino presto o di notte senza disturbare. Senza la denuncia alla polizia municipale. Ammetto che non c'ero arrivato, perché pensavo che fosse una questione di ambiente, invece è l'inquinamento acustico, del quale acustico, se posso dire, se ne parla sempre troppo poco. Vorrei fare una mia battaglia personale sul fatto di queste pubblicità che ci sono in giro anche in metropolitana, che non c'è mai silenzio, e sono molto d'accordo. Quindi il trattore elettrico per non dar fastidio la notte. È bello, vero? Per non dar fastidio. E poi ovviamente il trattore elettrico c'è anche il vantaggio di ridurre le emissioni. Certo, quindi certo, anche il vantaggio ambientale. Tra le altre cose ho visto il motore gira uova che simula il movimento della chioccia. Ecco, perché quindi è molto cosa delicato. E poi sì, perché deve farlo? Ecco, infatti, perché è una cosa che pochi sanno. La chioccia, oltre a covare, cioè a riscaldare le uova, periodicamente anche le gira. Se voi osservate una chioccia, vedete che ogni tanto con il becco si avvicina alle uova e le fa girare per riscaldarle in maniera uniforme. Ecco, questa nuova attrezzatura, questa nuova incubatrice è in grado di simulare esattamente quello che farebbe la pioggia, quindi tirare periodicamente le uova in modo che si riscaldino, vengano riscaldate in maniera perfettamente uniforme. Beh, mi sembra, no, carino. Poi molto. altre quest'anno molta appunto tecnologia, ovviamente, perché voi andate poi a cercare questo, no? Innovazione, e quindi sì, l'innovazione sì. Ti porta alla tecnologia del 2020. Certo. Questo è ovvio. Guarda, in agricoltura c'è un livello tecnologico che mi sentirei quasi di dire che è superiore, ad esempio, all'automotive. Ad esempio, la guida completamente autonoma, di cui tanto si parla nelle automobili, in agricoltura c'è già. Quest'anno abbiamo premiato una attrezzatura costituita da un trattorino collegato a un atomizzatore. L'atomizzatore è un attrezzo che serve per i trattamenti e per difendere e curare le piante quando sono ammalate, e questa attrezzatura è completamente a guida autonoma, è in grado di vedere gli ostacoli, di vedere la conformazione del terreno e quindi di regolare la potenza del motore. Diciamo, ecco, che la guida autonoma in agricoltura è già realtà. Ma ed è, chiedo scusa, sono ignorante sull'argomento, ed è un trattore che quindi noi potremmo vedere in un campo, che va da solo senza su nessuno che lo sta guidando. Esattamente, esattamente. E delle dimensioni di un trattore, no, diciamo? Diciamo che per il momento sono piccolini, sono dei trattorini piccoli che vengono utilizzati ad esempio anche quando ci sono terreni in pendenza, in molta pendenza, quindi si garantisce sicurezza all'operatore, perché l'operatore non sta sulla macchina ma sta a bordo dell'appezzamento e controlla il lavoro della macchina. Ah, è come se fosse telecomandato, diciamo? Esatto, certo. Esatto. Ma voi dell'informatore agrario vi invitano a fare le prove come quelle di quattro ruote che vanno a vedere? Come no, certo. Ma noi che bello. Noi facciamo le prove sia degli trattori sia delle attrezzature, che sono quelle macchine che vengono applicate ai trattori, che servono per tutte le operazioni colturali, dalla semina, concimazione, fino alla raccolta. Vabbè, diciamo che bello. Diciamo che vista la situazione che ci hai un po' descritto, se un agricoltore ha anche la volontà di farlo, nel senso di essere più sostenibile o di, che so io, regolarsi meglio sull'acqua, si può fare tutto ormai. Si può fare tutto ormai, e gli agricoltori lo stanno facendo, perché... Il limite magari è che queste macchine costano tantissimo. Ma guarda, in realtà no, possono costare poco più delle macchine tradizionali. Ormai, se l'industria sta investendo così tanti soldi nell'innovazione, significa che c'è la domanda. Significa che gli agricoltori vogliono questo tipo di macchine. Le volevo fare una domanda. I droni invece vengono usati, siccome spesso poi si parla di droni per le consegne, allora mi chiedevo se in agricoltura si usavano tanto i droni. Allora, i droni vengono usati non tantissimo, vengono utilizzati soprattutto per il monitoraggio delle colture. Sono dotati di telecamere in grado di vedere se le piante stanno bene, stanno soffrendo, hanno sufficienza, diciamo così, da mangiare, cioè se hanno sostanze nutritive a sufficienza. Vengono usati per vedere se in qualche parte dell'appezzamento ci sono troppe erbacce, quindi bisogna intervenire. Vengono usati anche per distribuire qualche prodotto curativo delle piante in maniera molto molto localizzata. Ma faccio un'ultimissima domanda. Antonio viene risucchiato. Esatto, mi chiedevo se tutte queste novità incredibili come modificano l'agricoltura, se la stanno modificando, se la stanno migliorando, se cambierà qualcosa anche per noi, se cambieranno i prezzi, se cambierà la qualità. Allora, l'agricoltura si sta modificando tantissimo. Intanto bisogna dire che riuscire ad utilizzare queste attrezzature, questi prodotti, bisogna essere molto qualificati. Quindi i nostri agricoltori stanno crescendo molto dal punto di vista professionale. Inoltre stanno modificando anche i prodotti, perché i prodotti sono sempre più salutari. L'Italia è il paese al mondo con la maggiore sicurezza alimentare. Se il rapporto che ogni anno viene fatto sul controllo contenuto ad esempio di residui, di prodotti chimici all'interno degli prodotti alimentari, soprattutto della frutta e degli ortaggi, evidenzia come l'Italia sia il paese europeo più virtuoso. Quindi i nostri agricoltori stanno lavorando per darci prodotti sempre migliori dal punto di vista qualitativo, ottenuti con processi produttivi sempre meno impattanti dal punto di vista ambientale. E possibilmente senza uscire di casa con un telecomandino facendo tutto. Scherzo ovviamente. Una parte. Ne sono molto contento, ci mancherebbe altro. E mi piace anche questo fatto che bisogna anche studiare, anche perché adesso andiamo in una storia proprio di un agricoltore che si è messo a studiare. Esattamente, sì, quindi mi sembra che tutto si tenga. Esatto. Grazie Antonio Boschetti. Comprate l'informatore agrario, scusate, se volete ulteriori informazioni sulla questione. Abbiamo una piccola pausa e poi per l'appunto parleremo con un agricoltore che ha deciso di cambiare la sua tradizionale, il suo tradizionale approccio alle cose. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci con il quiz, prima di continuare a parlare di agricoltura è in collegamento con noi Mara da Milano. Buongiorno Mara. Buongiorno, felice di conoscervi, di parlare con voi, di giocare. Grazie buongiorno, anche a noi di averla mille. Buongiorno. Allora, tutti i sabati e indovino sempre. Speriamo che anche oggi vada bene. Esatto, sta alzando l'asticella delle aspettative adesso. Sì, un pochino sì. Ci fa intanto piacere tutto il suo entusiasmo. Allora, io le... Siete fantastici, vi ascolto sempre. Allora, l'Italia tra le stelle, questo è il tema. Wow. L'Italia tra le stelle. Questa settimana l'Agenzia Spaziale Europea ha deciso di assegnare all'Italia la realizzazione del programma Prospect. Qual è l'obiettivo di questo progetto? Risposta numero uno, realizzare la prima pizzeria nello spazio in attesa dei primi turisti spaziali. Risposta numero 2, rendere più attraenti i cosmonauti abbellendo le tute spaziali con un tocco di Italian style. Risposta numero 3, perforare la Luna alla scoperta dei segreti nascosti nel suo sottosuolo. Ah, ma siete stati cattivissimi! No, siamo stati molto buoni. L'obiettivo, qual è l'obiettivo di questo progetto? Il programma Prospect. La pizzeria nello spazio in attesa dei turisti spaziali. I cosmonauti più belli con delle tute fatte all'Italian style, oppure perforare la Luna alla scoperta dei segreti nascosti nel suo sottosuolo? Sono tutte e tre molto... Mi piacerebbe pensare da buona italiana. Dai. Le metto fretta. Mi piacerebbe molto che fosse quello. Anche la seconda opzione fantastica. No, sono molto indecisa questa volta, forse sono anche un po' emozionata. Non si preoccupi, non lo so, però deve prendere una decisione, purtroppo. Devo prendere una decisione velocissima, sì. Facciamo la 3. Complimenti. Ed è quella giusta. Adesso sicuramente è un po' emozionata, perché quando risentirà nel podcast, come tutti possono fare, riascoltare il podcast della trasmissione, capirà che le altre due risposte... Carlo poteva solo... Esatto, più di così non potevo fare. Sono felicissimo che abbia vinto, si porta a casa 2 biglietti per la mostra Impressioni d'Oriente al MUDEC di Milano. Arrivederci Mara, grazie. Arrivederci. Grazie. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run. E a questo punto diamo il benvenuto al nostro ospite dalla Sicilia, Vito Amantia, imprenditore agricolo di Scordea, provincia di Catania. Lui sì che ha messo in pratica tutte le novità di cui abbiamo parlato, perché è riuscito addirittura a ridurre del 60% l'uso di acqua per innaffiare e irrigare i suoi aranceti. E non sono uno, non sono due, ma lui ci ha detto 200 ettari. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei com'è arrivato, diciamo, a ottenere questo bellissimo risultato che fa bene anche alla Sicilia, che è terra di acqua in alcune parti, ma di scarsità in altre parti? Guardi, si arriva a queste scelte perché bisogna fare di necessità virtù. Queste sono cose che ci hanno insegnato i nostri padri, quindi il fatto che la Sicilia è una bellissima terra, ma quando ha l'acqua scarseggia in determinati periodi, è abbastanza carente, per cui certo. o ci si attiva a trovare tecniche che ci danno una mano, oppure... Voi avete antiche tecniche, no? Esatto. Che erano quei grandi bacini d'acqua che venivano riempiti, e poi moderne tecniche che lei ha applicato, no? Quindi... I bacini sono necessarissimi, perché in Sicilia, la Sicilia non è che di fatto è carente d'acqua, solo che ha acqua in determinati periodi e in determinati periodi non ne ha. Quindi quella di fare dei bacini nelle aziende è una pratica intelligentissima, perché è chiaro, sì, nei periodi quando piove e quando l'acqua viene distribuita dagli enti pubblici si fanno le scorte e poi si utilizzano. Senza le scorte non si può applicare una tecnologia che è avanzata, sì, ma che ha bisogno al momento, all'istante, di avere una fonte d'acqua. È certo. Però comunque ne usate il 60% in meno voi. Certo, questo è un risultato incredibile. E come si è raggiunto questo risultato? Guardi, negli anni irrigare non solo gli agrumeti, ma diciamo tutte le colture arboree, si è passata dall'irrigazione a scorrimento, l'acqua si incanalava nel terreno e si portava a spinta, a scorrimento per differenza di livello, si portava alle piante, quindi lo spreco era enorme. Certo. Poi si è passato all'irrigazione ad aspersione, i vari tipi di aspersione. Noi chiamiamo, c'erano impianti che chiamiamo a baffo, poi c'erano irrigazione sopra chioma, e adesso si è passata all'irrigazione localizzata, che è la famosa irrigazione a goccia. Mi chiedo una cosa, per arrivare a questa irrigazione a goccia, ovviamente io non sono un esperto né di irrigazione e né di gocce, ma mi chiedo, bisogna investire molti soldi, nel senso che è uno come lei, che è lungimirante, che dice questa cosa qua mi conviene, quindi investo dei soldi per avere questo tipo di irrigazione, o è una cosa che invece possono permettersi tutti? No, guardi, le dico addirittura che oggi è una pratica, diciamo che è un investimento che stanno facendo tutti, perché costa di meno, paradossalmente costa molto di meno l'impianto che i vecchi impianti ad aspersione, perché c'è bisogno di meno flussi d'acqua, di meno pressione, per cui costa addirittura realizzare l'impianto, costa di meno. E certo. Applicare la tecnologia in maniera poi sopraffina, perché è chiaro che una tecnologia può essere applicata al 10%, al 20, al 50, al 100%. Diciamo che l'impianto di per sé costa di meno. Quindi lei ha fatto da apripista, ma adesso ci sono tanti suoi colleghi che la seguono in questa direzione del... Sì, devo dire che ultimamente c'è tutta una generazione di agronomi che ha preso nelle mani queste tecniche e le sta divulgando. Molte aziende hanno già queste, utilizzano questa tecnologia. È chiaro, le ripeto, più le tecnologie, più si utilizzano in maniera raffinata, migliore il risultato. Ecco, l'irrigazione localizzata può essere utilizzata, le ripeto, al 50, può essere utilizzata al 100. Certo. Come si fa per utilizzarla in maniera proprio scientifica? È chiaro che occorre sapere il mio campo, perché può essere differente il mio campo dal campo del vicino. Il mio campo di che cosa ha bisogno, di quanta acqua ha bisogno durante il giorno. Ecco, dipende anche allora, dalla pianta che c'è, no? Ecco, dalla varietà. Dipende dalla varietà, dalla varietà mica tanto, diciamo dalla grandezza della pianta, dal tipo di suolo, dal tipo di esposizione al sole, al vento, tutta una serie di fattori che così a naso si possono calcolare con l'esperienza, ma tra virgolette calcolare fino a un certo punto. Certo. Perché non dimentichiamo che noi contadini, noi agricoltori, nel dubbio tendiamo a dare qualcosa in più alla pianta, perché mai vorremmo trovare nella condizione di dire tu non mi hai dato perché io non ti ho dato. È chiaro, ma possiamo anche dire che quindi la sua azienda è molto tecnologica, perché leggo anche di irrigazione alimentata da sistemi energetici solari, gestita a distanza col PC, con lo smartphone. Poi dopo lui si collega con la FAO per avere anche ulteriori informazioni. Uno è uno studiato, no, signora ecco, Mantia. Volevo arrivare proprio lì, è uno studiato, nel senso che ho letto, se è sbagliato ovviamente mi corregga, che lei è il primogenito di quattro fratelli e a 11 anni ha iniziato a lavorare in azienda con suo padre, quindi ci immaginiamo anche un po' un'altra epoca, se vogliamo, però, e quindi ha dovuto interrompere gli studi, però poi ha deciso di continuare a studiare privatamente e questo mi sembra un grandissimo si può fare, perché molto spesso, no, si pensa a qualcuno che appunto ha iniziato a lavorare giovanissimo nei campi e allora adesso figurarsi usare il telefonino, invece secondo me lei lo sa usare molto meglio di me il telefonino, perché ci gestisce 200 ettari di arance e tarocco. Esatto, sì. Quello, guardi, è una questione poi uno è sempre personale. È chiaro che crescendo, avendo avuto la fortuna di prima ho cominciato a visitare qualche fiera, c'è lei, ma ad esempio di Bologna, che è una delle fiere che ha tecnologia a mezzi, ha tecnologia eccezionale. Lì ho avuto la fortuna di conoscere chi ha fatto veramente di necessità virtù, gli israeliani, perché da lì parte il concetto certo. del risparmio estremo dell'acqua. Certo. Quindi ho avuto la fortuna di conoscere persone lì del luogo, mi hanno invitato e ho cominciato a fare diversi viaggi in Israele. Da lì ho appreso, ho guardato, ho visto, dico ma perché qua applicano questa tecnologia e noi no? E quindi piano piano il pensiero mi sembra giusto, uno dice ma se riescono a coltivare i pompelmi in Israele, ma sarà possibile avere delle arance tarocco in Sicilia straordinarie? Consumando un po' meno d'acqua, senza... che tra l'altro sono spese poi anche. Certo. No, guarda, abbastanza di meno. Quindi da lì si è cominciato tutto un processo di crescita e poi applicando sempre più tecnologie sempre più avanzate. Cosa le posso dire? Applicando dei sensori al terreno, sapendo l'evapotraspirato, collegandomi ai siti mondiali che danno un'indicazione, che sono i siti della FAO, che danno un'indicazione generale sul fabbisogno per ogni cultivar. E poi da lì lei se la applica nella sua azienda. Quindi che cosa fa? Avendo tutti questi dati, non fa altro che applicarli e ci si accorge che rispetto alla sensazione che abbiamo noi contadini il risparmio è notevolissimo, non solo risparmia, ma localizzando il tutto, acqua, localizza il fertilizzante. Immaginate un po', lei non Guardi, posso dirle, sta facendo una straordinaria lezione sui big data in questo momento e giustamente dicendo io da contadino, e questa cosa la trovo molto buona e... La dobbiamo salutare, ci risentiamo, esatto. Così vediamo tutto. È una bella storia, esatto. Volevo sapere anche dei figli, ma lo faremo la prossima volta. Va bene. Grazie molte, Vito Mantia. Abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E siamo arrivati al momento della classifica delle notizie, le migliori buone notizie della settimana. Comincio io con il quinto posto. ambiente nascono i caschi verdi, selezionati i primi 22. L'annuncio è arrivato dal ministro dell'ambiente Costa, che ha poi spiegato: proteggeranno e valorizzeranno i siti dell'UNESCO. A questo programma, ha fatto sapere il ministro, a questo programma sperimentale sono destinati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. I 22 esperti, continua Costa, provengono dall'ISPRA, ma non ci fermeremo all'ISPRA, stiamo interpellando le università, il CNR e così via, tutti coloro che volontariamente, ma in servizio, intendono aderire mettendosi al fianco degli enti gestori per dare loro quel supplemento di esperienza che serve per tutelare al meglio gli scrigni della natura. Queste le parole del ministro Costa. Al quarto posto la grappa, una tappa fondamentale di crescita per il Made in Italy. Nonino vince il Wine Enthusiast Award, distilleria dell'anno per il 2019. È una notizia importante perché il nostro paese sale sull'Olimpo dei distillati. È la prima volta che viene premiata una grapperia, mi viene da dire, ma invece è una distilleria di grappa a questo importante premio. Lo fa appunto la distilleria Nonino, che il 27 gennaio è stata insignita del Wine Enthusiast Award, il più importante premio internazionale di Wine and Spirits, nella sezione Spirit Brand Distiller of the Year 2019. Un premio che segna, appunto, come si diceva, un punto d'arrivo in un percorso che sta facendo la grappa italiana. Nonino è infatti il primo brand produttore di grappa, oltre che la prima distilleria italiana ad aggiudicarsi questo premio. Ne siamo molto contenti, anche perché è un'azienda storica che nasce, è stata fondata nel 1897 e poi negli anni 70 ha iniziato invece a decidere di rendere la grappa non quel prodotto più grezzo e forte di cui si parlava, ma iniziando a produrre grappe monovitigno di alta qualità, e adesso si porta a casa questo premio. Al terzo posto è stato rifinanziato il fondo per i neo maggiorenni, 3 milioni di euro in più per ciascuno degli anni 2021-2024, in modo da proseguire l'esperienza avviata con il fondo a sostegno dei percorsi di autonomia dei ragazzi in uscita dalle comunità educative o da percorsi di affido, sia avviandone di nuovi, sia dando continuità a quelli in essere, allungando cioè per la prima l'età di accompagnamento fino al compimento dei 25 anni. Questa è la notizia. L'emendamento è stato approvato recentemente dalla Camera dei Deputati, emendamento che porta la firma, e va detto, dell'onorevole Emanuela Rossini. Al secondo posto bonus per i seggiolini antiabbandono. Ne abbiamo parlato spesso dell'utilità di questi seggiolini per evitare quelle tragedie terribili di quando si dimentica un figlio o una figlia nella propria automobile. Si era parlato di una legge, pare che la legge entrerà in vigore. Non si sapeva se ci sarebbero stati o meno dei soldi, intanto un po' di soldi ci sono, non sono tantissimi, sono 5 milioni per il 2020, quindi addirittura si dice sbrigatevi, fate presto, perché insomma quando finiscono i soldi poi finisce il bonus. Le linee guida per ottenere il contributo di 30 euro sono molto semplici, tutto quello che gli interessati dovranno fare sarà registrarsi a partire dal prossimo 20 febbraio sulla piattaforma informatica SOGEI, accessibile su appunto www.sogei.it oppure su www.mit.gov.it. Allora, al secondo posto abbiamo appunto parlato del seggiolino anti-abbandono. Al primo posto abbiamo voluto mettere questa azione del sindaco di Milano, che più che delle sigarette questa settimana si è occupato delle caldaie dei milanesi. Che ci sembra più importante, sì, per lo smog, forse più stringente anche. 3 anni per togliere di mezzo le caldaie a gasolio. A partire dal 2023 saranno dichiarate fuori legge. Così ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un appuntamento pubblico. Ci sono 1500 condomini, dice Sala, che non le cambiano, e siamo arrivati a questo zoccolo duro che non vuole, no, come dicevamo la settimana scorsa, certo, perché finché tanto non ci beccano chi se ne bravissimo frega. E invece l'obbligo sarà entro il 2023, questi 1500 dovranno mettersi in regola e togliere di mezzo le caldaie a gasolio. Li abbiamo beccato, possiamo dirla così, a questi 1500? Sì, sì, evidentemente. Se ne ha contati 1.500, c'ha l'elenco di quelli, eh? E dice il sindaco: ho fatto una verifica, lo possiamo fare, affretteremo alcuni percorsi, è chiaro che se non diamo l'esempio noi, quindi anche negli uffici pubblici, poi ha ragione chi non fa le cose. Ma insomma, giusto, noi ci metteremo in regola e pretenderemo che i milanesi si mettano in regola. Ottima cosa. E quindi questa è la prima notizia della settimana. Give me five. All right. Give me five. All right. Abbiamo ancora un minutino. C'è Gabriele dalla provincia di Firenze che ha chiamato per il suo ricordo della Brexit, della Gran Bretagna. Non lo so, sentiamo un po'. Gabriele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno. E complimenti per la trasmissione. Grazie. Abbiamo pochissimo tempo, sì, purtroppo. Allora, mi dispiace, il mio ricordo comunque è legato a qualche anno fa, al concerto del Live Aid del 2005, quando, insomma, al di là dell'evento c'è stata anche la reunion dei Pink Floyd in formazione originale, quindi certo, fu quello il motivo che mi spinse in quell'occasione ad andare lì con la mia ragazza, una partenza affrettata senza nemmeno documentarti sulle modalità di accesso a questo evento. E quindi sì, siete partiti e via. È un esempio stupendo, soprattutto perché è una riunione, quindi gente che si era divisa, che si è rimessa insieme. Grazie mille. E noi mille. Ci riuniamo domani alle 8:30 con Si può fare. Saluti a tutti, a Filippo Aureggi in regia, Edoardo Lavezzari, Danilo Di Trani e Andrea Piana. Domani.